alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Prima puntata. Il cerchio di luce. A mia sorella Zizi. Vi sono giorni in cui il cielo sopra Torino è immenso. Giorni di afa estiva, quando il calore copre l'orizzonte sin dal mattino. Copre da una parte le colline e dall'altra le montagne. All'alba gli alberi frusciano in vaste onde frondose con un movimento lento e continuo che si propaga per tutta la città. Il cielo sovrasta in un grigio giallino, opaco, uniforme, senza una nuvola, e non si muove. Sotto questo cielo volano e trillano le rondini. Poco dopo, verso le 8, gli alberi, ondulando sempre più lentamente, si rinchiudono intorno ai trilli finché il loro movimento sosta. Il cielo si fa d'un giallo violento e il rumore delle macchine riempie le strade. Mi capita di udire Gianni e qualcuno dei suoi amici parlare di Torino come era al tempo della loro infanzia e adolescenza, quando andavano a pattinare all'Italia. Qui c'era la passerella sulla ferrovia, là si camminava per la strada dei Casini o per via Roma, ancora storta sulle vecchie botteghe. Torino terminava al Mauriziano, poi c'erano i prati. Parlando di questa Torino, Gianni e i suoi amici non sono affatto tristi. Non rimpiangono nulla. Ho sentito Gianni rimpiangere soltanto le rotaie del tram numero 8 che qualche anno fa furono divelte. Vedranno, diceva vendicativo, quando non ci sarà più benzina. Una volta, camminando per il Valentino, rimpianse anche la gigantesca araucaria dell'orto botanico, il cui tronco, tagliato, enorme, rudo e grigio, sporge dalla cinta. Parla di persone e mentre parla la città si restringe in una cerchia stretta in cui tutti si conoscevano. Aveva già le gambe storte da bambina, medita Gianni passando accanto a una signora. La conosci? No, ma andavamo insieme alle elementari. Veniva anche lei alla Silvio Pellico. Non rimpiange la Torino d'una volta, mi dico, perché non l'ha persa. Non ha perso la sua infanzia. Spesso invidio l'infanzia degli altri. Mi accade persino di invidiare di colpo un bambino in carrozzella o le giovani donne gravide con il loro grazioso e svelto pancione. L'invidia attecchisce nel disagio di sempre di dovermi informare, di essere tagliata fuori, e nella nostalgia che io invece provo per la Torino d'una volta, dalla quale vengono immutati il bambino in carrozzella e la giovane svelta donna con il suo bel pancione. Il rimpianto che non sembrano provare Gianni e i suoi amici si nutre appunto di quello che non so, che non ho visto, degli odori che non ho sentito, dell'esistenza di quell'altra che non sono stata. Sono ben più di 30 anni che sto a Torino e la nuova città che si è aperta ad anello intorno al vecchio nocciolo la conosco a fondo. È maturata e invecchiata con me nei suoi enormi corsi bordati ininterrottamente da palazzoni a sud e a ovest, nelle nuove ville dei quartieri residenziali della collina, nei già nebbiosi e più radi quartieri verso l'autostrada per Milano, dove sembrano predominare i distributori di benzina lungo la via e in alto, scintillanti nella notte, le scritte pubblicitarie. Ho passato un'estate a Torino con un libro di botanica. A Alle 5 del pomeriggio uscivo e andavo lungo la recinzione dei giardini del centro e della Crocetta. Passavo nei giardini pubblici e intanto riconoscevo gli alberi, confrontandoli con le indicazioni e le illustrazioni del libro. Il vento estivo sollevava cartacce polverose verso la cupola spessa degli ippocastani. Nel giardino accanto fioriva una sofora. Nei giardinetti di via Bertolotti sfiorivano invece le acacie di Costantinopoli. Nei giardini la marmora, le foglie degli alberi di Giuda. In certi tramonti bluastri per quei temporali che d'estate girano continuamente intorno alla città come paratie nere che si aprono e si chiudono ora nord, ora sud, le foglie degli alberi di Giuda, dicevo, erano d'un verde chiaro, intenso, illuminato d'azzurro. Guardandomi intorno, sarà una pterocaria o una eliante? Provavo soprassalti di solidarietà, non ben specificata né indirizzata, comunque rivolti a chi come me se ne andava per le strade di Torino l'estate. Mentre camminavo per i luoghi, strada dopo strada, sui marciapiedi sporchi di polvere, carte, gelati squagliati, preservativi, siringhe, scrementi di cane, la strada finiva col diventare il luogo, l'unico possibile, indistinguibile dagli altri luoghi, e la gente e io con loro sul marciapiede, indistinguibili tra di noi. Puntavano nuovi casoni sui nuovi corsi fangosi e interminabilmente nudi, fragili dapprima nella loro solitudine distanziata, poi riordinati tra cerchi terrosi con magri alberelli bagolari, oppure d'improvviso con file diritte di aceri solcavano il grande parcheggio tra il San Giovanni Vecchio e il Palazzo della Borsa. Cambiamenti aleatori, suscettibili di ulteriori avventurose trasformazioni per mano invisibile in una sola notte. Opinabili le cabine telefoniche, copia esatta delle macchine di trasmigrazione temporale e spaziale dei film fantascientifici, ovvie appunto come cabine telefoniche, a testimoniare anche loro la necessità quotidiana, la naturalezza di simili trasmigrazioni. Questo è il luogo senza nome, uguale ad altri luoghi, e il mio tempo, uguale al tempo degli altri. Non fuggirò più. Quando da bambina immaginavo di scappare di casa, l'Italia era il paese dove avrei voluto fuggire. L'Italia, la patria di mia madre, dove faceva sempre caldo e si stava lunghe ore in giardino. Pazienza alla diarrea che accompagnava le mie vacanze estive per la troppa frutta colta ancora verde dagli alberi. Mia sorella e io siamo nate a Riga. Una mia foto a 5 anni, i capelli raccolti in 2 codini folti ai lati del viso minuto, vestita nel bel vestitino di velluto a righe, scelto come gli altri da mia madre, con sopra il sottile grembiule di casa, sto in piedi accanto alla casa delle bambole e tengo fermo con la mano sul tetto piatto il mio bambolotto Villi vicino alla gabbia del canarino Pippo. Accenno un sorriso mite e cocciuto e guardo lontano, di lato. Con lo stesso mezzo sorriso sul piccolo mento testardo, di nuovo rivolta altrove, sono seduta in un'altra fotografia accanto a mia madre e a mia sorella, che invece guarda di fronte con occhi splendenti e curiosi. Mia madre, di profilo, girata verso di me, sorride d'un sorriso orgoglioso e commosso, ha 2 minuscole rughe all'angolo degli occhi. La mia coscienza di me è legata alle paure che avevo, la mia consapevolezza degli altri al comparire di mia sorella nella mia vita. Stiamo andando al Kaisergarten. Cammino con le mani appoggiate alle stanghe della carrozzina con dentro mia sorella. Credo di spingerla e ricordo distintamente il luccichio delle stanghe all'altezza della mia testa. Dietro di me cammina la Schwester, che naturalmente è lei a spingere la carrozzella, ma io penso, adesso che mi vedono, diranno: che brava questa bambina che conduce a spasso la sorellina. Incontriamo qualcuno e ci fermiamo, e quel qualcuno, in alto su di me, dice: che occhi che ha questa bambina, sembrano proprio due prugne nere. So subito che gli occhi di mia sorella sembrano due prugne nere. La parola prugna in tedesco un suono tenerissimo, e quello stesso suono lo ripete mia madre, a cui la Schwester racconta poi l'episodio. La notte sogno di camminare su quello stesso marciapiede, sulle foglie degli aceri. Accanto a me cammina un piccolissimo essere bianchiccio e molle. Io lo schiaccio e schiacciarlo mi dà un'immensa sensazione di potere. So che è vivo e che posso ucciderlo, che dispongo di lui. Un'altra volta ne trovo parecchi su un muretto e li schiaccio di nuovo. Resta una larga macchia dove li ho schiacciati. Da sveglia mi spavento di questi sogni. Da sveglia non posso fare male a nessuno, non posso neppure guardare i cocchieri che frustano i cavalli. Mi hanno raccontato che si deve uccidere i cavalli caduti con una zampa rotta, perché se un cavallo cade non può più rialzarsi. Quando camminavamo verso il Kaisergarten dovevo avere poco più di 2 anni, perché tra me e mia sorella non ci sono che 13 mesi di differenza. A questi 13 mesi appartengono pure 2 foto del nostro album di famiglia. Nella prima, una foto scattata da mio zio, sto seduta nuda su una sedia di vimini al sole nel giardino di Torre Pellice davanti alla casa dei miei nonni materni. Rido a piena faccia e mia madre, da dietro lo schienale della sedia, si china su di me sorridendo. Nell'altra, ripresa da un fotografo, mi appoggio in piedi a mia madre, inginocchiata su un vestito molto largo. Ho un viso piccolissimo e serio, piccoli occhi, piccolo naso, piccola bocca, pochi capelli lisci. Dietro la foto c'è una scritta di mia madre in cui mi chiama Marinette. Di questo grazioso nome non ho alcun ricordo. Da piccola mi chiamavano Miki, il soprannome datomi da mia sorella, e la mia nonna materna mi chiamava Mina, accentuando alla francese l'ultima A. Può darsi che appartenga ai 13 mesi che separano la mia nascita da quella di mia sorella, l'amore che ho per il sole nudo d'autunno e di primavera, quando sembra risplendere più chiaro e spavaldo dietro i tronchi e i rami spogli. Ogni volta cercano allora forma in me ricordi di fatti non vissuti o di sentimenti non provati consapevolmente, e dico: così va bene, non ho paura. Oppure dico: sono come sono e me la voglio godere. Ma soprattutto mi pare di essere altrove, di camminare in giro i primi passi di qualcun altro. Invece ho saputo molto presto dove mi trovavo, anche se la mia consapevolezza era limitata al luogo, la mia stanza, la strada della nostra casa, il lembo di spiaggia sfiorato dal mare, e ignorava gli spostamenti. In quel luogo e in quel tempo, qualsiasi mio gesto e qualsiasi parola erano importantissimi, decisivi. Inchiodavo gli avvenimenti in una cornice dove potevo subito affrontarli. Tutti quanti, sulle prime, mi sembravano temibili. E ignoravo che si potesse aspettare o rimandare. Avevo dunque molte paure, ero vigliacca, diceva mia madre, in cui persone e luoghi si confondevano. C'erano persone che mi portavano in situazioni difficili, luoghi che evocavano presenze paurose. Cercavo però, in ogni posto e in ogni momento, il mezzo, il gesto o la parola per risolvere da sola le mie paure. Ero anche bugiarda, diceva mia madre. Temo mia madre. La temo quando c'è, ma la desidero quando non c'è. Mi dicono che questo è l'amore che tutti i bambini hanno per la madre. Anche la mamma li ama perché ha sofferto nel metterli al mondo. Questo non lo capisco, perché li ama avendo sofferto. Capisco invece benissimo perché la mamma li faccia lei i bambini e che le debbano tagliare la pancia all'ospedale per farli uscire. Anche quando sono nata io, mia madre è andata all'ospedale. Prima che nascessi, ha vomitato per settimane e settimane. Si fermava dietro gli steccati per vomitare in pace. Ha smesso di vomitare la sera prima che io nascessi. Sono nata in anticipo di alcune settimane. Ciò dovrebbe finalmente essere un merito, ma non lo è, perché è stata mia madre a farmi nascere prima, salendo su una scala per sistemare dei vasi di marmellata su un armadio. Poi ho fatto sempre le cacchine verdi e ho pianto la notte. Ho camminato tardi e ho parlato tardi. Sembravo scema, però la vecchia gnagna che giocava con me la notte quando mi svegliavo e mi cantava canzoni russe diceva che ero intelligentissima. Gli adulti non hanno paura. Questa è la differenza tra loro e me. Non so se abbiano ragione a non avere paura. Camminano sul ghiaccio dei laghi. Il ghiaccio scricchiola. Chi glielo assicura agli adulti che non si romperà? Lasciano accese le stufe la notte, poi gli bruciano le case, soprattutto agli operai della periferia, e i pompieri debbono correre a spengerle. Lo zio mi butta in aria e mi riprende al volo. Lui si diverte molto, ma sarà poi capace di riprendermi. E infine, non gli è forse caduto agli adulti persino lo Zeppelin, che un mattino è passato tutto argenteo al sole proprio davanti alle nostre finestre affacciate sulla duna? Anch'io diventerò adulta, ma non riesco a figurarmelo. Mi preoccupa, e ci penso spesso, di crescere tutto a un tratto in una sola notte. Come farò l'indomani a trovare subito i vestiti della lunghezza esatta? Mi toccherà andare a comprarmeli da sole, mi prenderanno in giro gli adulti per i miei vestiti da bambina troppo corti. Mi prendono in giro volentieri e io detesto essere presa in giro, anzi, detesto quelli che mi prendono in giro. Camminando, mi volto a controllare la strada fatta per poter eventualmente ritornare a casa da sola se fossi stata abbandonata. E così, nel caso mia madre non ce l'avesse fatta risalire in tempo sul treno, imparo a memoria il nome di tutte le stazioni per le quali passiamo nel lungo viaggio di 4 giorni che ci conduce in Italia d'estate. A Italia, a Torre Pellice. Il primo nome italiano che imparo è Garda, lago di Garda, e lo vedo un mattino appena alzata nel finestrino del treno, un angolo angusto di acqua verde smeraldo. Quando spiego a mia madre che cosa sto facendo per la strada mentre mi volto indietro per tutto il tempo durante la passeggiata, lei si offende moltissimo. Io invece vorrei soltanto che finalmente mi lodasse. Di solito mi lascio trasportare da un luogo all'altro come un pacco e appena arrivata mi affretto a scavarmi la tana. Odio i ricevimenti di bambini dove qualche adulto mi disturba negli angoli offrendomi enormi e disgustose fette di dolce cremoso e facendomi domande su quel che mi piace. Ti piace andare in slitta o a pattinare? Ti piace la cioccolata? Ti piace andare all'asilo? Una volta mi portano a vedere un bambino piccolo appena nato. Siamo nella casa di qualcuno della legazione olandese. Io mi sono trovata un posticino riparato nel vano di una finestra dietro una grande tenda e guardo un libro illustrato leggendo i titoli in maiuscola, ed ecco che il solito adulto mi scova e mi porta insieme agli altri bambini a vedere il neonato. La stanza dove c'è la culla è molto illuminata e c'è molta gente. C'è odore di cioccolata calda. Il bambino ha le gambe e i piedi nudi, è grasso e bianco. Tutti dicono: che bel bambino! Ma a me viene da vomitare, chissà se per l'odore della cioccolata calda o perché ho visto un capello arrotolato intorno all'alluce del bambino. Ogni tanto vomito, non mi piace mangiare la carne e riesco a tenere per tutto il pomeriggio, ben riposte negli angoli della bocca, pallottoline di carne masticata e non ingoiata, mentre mia madre me le estrae col dito, mi sgrida. Ha ragione, dovrei riuscire a ingoiarle. Se non le ingoio, non cresco. Quando ho avuto la pertosse, lei ha fatto arrivare attraverso la legazione italiana delle arance. Costano moltissimo e stanno allineate su una mensola alta. Le mangio per farle piacere, poi le vomito, care come sono. Mentre mia sorella, che pure lei ha la pertosse, riesce a ringoiarle. Mia madre lo racconta e ride descrivendo mia sorella che rapida tossisce, ringoia le arance e torna a giocare dicendo fatto. Non mi piace mangiare. Sono ghiotta soltanto di pochi cibi. Il salmone lesso oppure affumicato. Vado la sera a guardarmelo sul tavolo della cucina, al buio, roseo e fragrante, pronto già per l'indomani. Anche il kissel, una gelatina acidula di bacche, lo mangio volentieri. E gli spaghettini in brodo, eppure i würstel, li compriamo nelle stazioni tedesche durante i viaggi, serviti su un vassoietto di cartone insieme alla senape e a una pagnottina bianca. Però di tutti questi cibi mi incantano anche particolari che hanno poco a che fare con il loro sapore. Il bellissimo rosa del salmone, oppure la trasparenza gelatinosa del kissel, il profumo vaporoso dei würstel e la forma ben rifinita del panino bianco. Inghiottisco invece senza disgusto l'olio di fegato di merluzzo. Non ha nulla di alimentare, infatti sembra colla liquida. Mentre mia sorella si nasconde sotto i tavoli e dietro il sofà quando arriva il momento dell'olio quotidiano, io lo sorbisco con punta. Naturalmente spero con ciò di farmi finalmente dei meriti, ma a dire il vero non mi costa molto. Mia madre però, forse indovina dei miei repellenti istinti alimentari, sembra quasi considerare con disgusto la mia docilità verso l'olio di fegato di merluzzo e compatisce mia sorella, seppure con faccia severa, mentre la estrae da dietro il sofà. Che cosa direbbe se sapesse che chiusa in bagno mangio regolarmente la crema Nivea e poi ne lecco con cura la superficie per farla ritornare liscia? Ogni tanto mi viene l'impulso di raccontarle che mangio la crema Nivea in bagno e se invece di sgridarmi si mettesse a ridere? Oppure vorrei dirle perché sto così a lungo nel piccolo gabinetto accanto alla cucina, se la prendono sempre con me perché ci sto dentro molto spesso, e pensare che non disturbo nessuno. Infatti, seduta sul coperchio del water, parlo con il cane chiuso nella lampadina. Chiuso esattamente nel recinto del filamento, e io gli parlo, lo compatisco e mi compatisco. Cane, gli dico, tu sei lì chiuso e anch'io sono qui chiusa e quando esco mi sgridano e domani mattina mi fanno il bagno gelato. Inoltre ho scoperto che durante il raffreddore sento un odore disgustoso all'interno del naso. Cane, tu non hai il raffreddore, sei pulito, inodore e luminoso dentro il tuo recinto. Ma non parlo con mia madre, la mia mancanza di meriti mi paralizza. Quando lei mi guarda in faccia sento che mi guarda fino in fondo. Inutile fingere, non valgo nulla. Se almeno mi compatisse per questo, ma nessuno mi compatisce. Neppure quando sono malata mi compatiscono. Sono spesso malata, malattie stupide che si chiamano infantili. Mia sorella a pochi mesi è stata malata così gravemente che ha rischiato di morire. Poi non è mai più stata malata. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jar. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.